Aiuto. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate? Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Il tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sbuca dentro a sta cella. Se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. Allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 15 e 2 minuti primi, 30 secondi, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, questo 24 di gennaio inizia la trasmissione La Conta. Buona libertà a tutti e tutte per questo, in questo 2018, e vediamo che cosa succede nell'universo penitenziario. Dunque, il problema continua a essere abbastanza, come dire, di un po' ridicolo per quanto riguarda gli amanti della legalità e del sistema legislativo, perché è successo, l'abbiamo detto più volte, che nel giugno dello scorso anno, quindi sono passati già 7 mesi, venne approvata una legge quadro per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Ricordate, una iniziativa di Orlando che è preceduta da una serie di stati generali, così chiamati, in cui aveva fatto discutere argomento per argomento, che so, il problema delle celle, il sovraffollamento, gli spazi, l'affettività, eccetera eccetera, tutti i problemi che gravano sui detenuti e le detenute, ha fatto discutere una serie di esperti che avevano tratto delle conclusioni del tutto teoriche, ovviamente, no? Sulla base di queste conclusioni Orlando però aveva fatto una legge quadro in cui dava le linee generali perché venisse riformato l'ordinamento penitenziario. Però la legge quadro dava appunto, come dice la parola, sono leggi quadro che permettono poi al governo di emettere decreti all'interno di quel quadro definito dalla legge quadro. La legge quadro è stata approvata a metà giugno dello scorso anno e le commissioni sono messe al lavoro per fare questi decreti, che erano pronti abbastanza presto perché era già tutto pronto, però il quadro politico, il fatto che si parlava di elezioni prossime, insomma, per tutti questi problemi qui la cosa veniva rimandata. Quando è stata fissata la scadenza elettorale, il rinnovo delle Camere per il 4 marzo, Orlando ha cercato di accelerare questa emissione di decreti che sono il 22, poco prima di Natale, diciamo, con il panettone sono stati sbloccati questi decreti. I decreti sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, dal Governo. le camere erano state sciolte, però rimanevano per l'ordinaria amministrazione, sono rimaste ancora in carica. Quello che devono fare ancora le camere, ossia non tanto le camere, Senato e Camera dei Deputati, ma le commissioni giustizia dell'una e dell'altra, devono solo verificare che questi decreti stiano all'interno del quadro tracciato da quella legge, tutto qua. Quindi vedere se non fuoriesce, se non c'è qualcosa di diverso da quello che la legge quadro aveva indicato al governo di emettere. Ovviamente sono interni, però le commissioni, c'è il clima parlamentare, c'è elettorale che dura, l'Italia dura da oltre un anno, sapete benissimo, non si fa altro che parlare di elezioni anche prima che venissero fissate, non si fa altro che fare, ognuno para i propri, sembra un albero di Natale, no? Ognuno dice votate per noi che troverete sotto l'albero questo, qualcun altro dice troverete questa, una serie di, un Natale espanso a tutto l'anno, anzi più di ormai più di un anno. E tutti a mettere doni ovviamente finti, poi bisogna vedere se quelli veri non lo saranno, ovviamente lo sappiamo già. Insomma, il problema è che questi decreti stanno emessi subito dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre, stanno ancora all'interno e bloccati dalle commissioni giustizia della Camera e del Senato. Perché? Non perché li stiano esaminando attentamente, ma perché sì, li stanno esaminando attentamente, ma non perché fuoriescano dalla legge, dal quadro stabilito dalla legge quadro. Sono totalmente all'interno di quello che già la Camera e il Senato ha approvato, cioè i criteri generali all'interno di cui devono essere sviluppati questi decreti. Bene, perché? Perché ormai la scadenza elettorale è vicina e poiché si parla di piccoli miglioramenti della condizione delle persone detenute, chiaramente con l'atteggiamento, come chiamatelo come volete, ma ormai i termini sono tanti, quelli di giustizialista oppure forcaiolo, insomma di tutti i partiti, quelli che siedono in Parlamento, tutti, assolutamente nessuno escluso, che queste piccole riforme sono piccole cose, ovviamente non portano acqua al mulino dei partiti e quindi l'hanno bloccata lì. Vediamo, ovviamente i radicali hanno quella che ha ripreso un po' la staffetta di Marco Pannella è la Rita Bernardini, da sempre si occupa anche lei di carcere e sta facendo insieme ad altri detenuti, magistrati, cioè lo sciopero della fame per accelerare questa cosa, fare in modo che questi decreti abbiano l'approvazione, che non è un'approvazione formale perché già è stata approvata la legge quadro, è solo una verifica che si poteva fare in mezza giornata, di vedere se quanto poi questi contenevano questi decreti, il contenuto di questi decreti non fuoriusciva da ciò che aveva stabilito la legge quadro e ovviamente non fuoriescono nemmeno di un millimetro, anzi stanno molto all'interno, tant'è vero che sono stati quello che prevedeva la legge quadro, non sono stati affrontati due decreti che avrebbero fatto un po' saltare sulla sedia i parlamentari, che però poi l'avevano approvata a giugno quella cosa lì, vabbè, comunque era quello sull'affettività e sul lavoro. Sull'affettività addirittura la legge quadro parlava di provare a innescare anche nel sistema italiano le cosiddette stanze d'amore, le stanze del sesso, insomma come c'è in molte parti di molti carceri d'Europa e anche del mondo, cioè la possibilità di fare in modo al detenuto che abbia con i propri, con la moglie, la compagna eccetera, delle attività sessuali sempre come un colloquio prolungato per tutta la giornata in posti abbastanza ovviamente protetti, insomma, no? Orlando se l'è cavata dicendo che non ci sono queste attrezzature, il che è vero, ma non è che ci vuole tanto fare una cosa di questo tipo qua, però il lavoro, immaginate che avrebbero strillato quelli che dicono che gli italiani perdono il lavoro perché ci stanno gli immigrati, che è la più grossa stupidaggine e menzogna mai detta dall'umanità su questa terra. Figurate, avrebbero detto mo diamo il lavoro ai carcerati, ai delinquenti e non alle brave persone. Tutte baggianate, tutte stupidaggini, il lavoro manca non perché ci siano gli immigrati o i delinquenti, ma perché le imprese preferiscono andare a investire, imprese anche i capitalisti italiani, diciamo le cose come stanno, quelli che hanno i soldi, i capitalisti italiani preferiscono andare a investire, cioè a mettere fabbriche in altre parti del mondo dove il costo del lavoro è più basso, tutto qua, e non c'è niente da aggiungere, il resto è imbecillità della gente, dei politici, dei giornalisti, di tutti, insomma, no? Però è un dato di fatto che in questa fase in Italia circola non tanto le fake, non è un problema di fake news, ma sono proprio stupidaggini, le imbecillità croniche di una serie di persone che fanno parte anche della popolazione, ma in prevalente vengono appunto dai media, molto i media, chiaramente il giornalismo oggi è una delle cose abbastanza più, come dire, più negative che ha l'umanità, ma non per quello che dovrebbero essere, per quello che sono. Comunque allora, quindi la Rita Bernardi sta facendo sciopero della fame insieme a queste altre persone perché vengano accelerati questi esami di questi decreti e perché dice una cosa nuova, cioè non una cosa, una cosa in più, dice intanto perché non si capisce questo ritardo. È normale quando c'è una legge quadro e poi i decreti attuativi, basta una settimana per analizzarli, perché è la commissione, cioè 10 persone, non tutto il bailamme della Camera o del Senato. Quindi dice che se si rinvia ancora la, diciamo, il via libera di questi decreti e quindi che diventino legge effettiva, il 4 marzo cambia il Parlamento, quindi cambiano anche le commissioni. E secondo lei dice così, la Rita Bernardini, ma anche altri dicono cambieranno probabilmente, sicuramente cambiano, non si sa in che, da una parte o dall'altra, cambiano gli equilibri parlamentari e può darsi che non li permettano più a questi decreti di diventare leggi. Questo è il rischio che dice la Rita Bernardini e che è condiviso anche da tanti altri giuristi, anche Antigone e altri analisti che studiano, diciamo, il carcere. La situazione è qui, quindi è tutto fermo. Perché non si capisce? Perché cioè, si capisce un po', per esempio, dentro questa, si sa poco poi di quello che dice la commissione, perché non sono i lavori parlamentari della Camera, dei deputati o del Senato, che sono lì dei giornalisti che seguono quello che viene detto e poi in qualche modo un po' distorto, un po' però lo raccontano sui giornali, quindi leggendo tra le righe si riesce a capire che cosa hanno discusso. La commissione è più ristretta, quindi non ha proprio un ufficio stampa che sta lì e segue attentamente. Qualcosa si è saputo, per esempio addirittura il Movimento 5 Stelle, per bocca di, adesso non li ricordo chi è, ha detto che il togliere alcune restrizioni, per esempio l'articolo 4 bis è una serie, un articolo che dice coloro che hanno, che fanno dei reati particolarmente che attengono alla categoria pericolosità sociale, che è una cosa del tutto inventata in questa Repubblica, proviene, ce l'aveva appunto il regime fascista, la pericolosità sociale, erano quelli che non erano d'accordo col regime, i cosiddetti antifascisti, che non facevano nessun reato concreto, quindi non potevano andare in carcere, però poiché secondo appunto il regime diceva non accettano questo regime, quindi sono pericolosi, potrebbero fare qualcosa, venivano mandati al confine oppure agli arresti domiciliari, cioè gli veniva impedita l'attività sociale. Questa categoria è ritornata, è stata dormiente per una trentina d'anni, 40, poi è tornata dopo, diciamo, dalla cosiddetta liberazione, è stata dormiente e adesso è stata riesumata, diciamo alla fine degli anni 70 è stata riesumata e ogni tanto viene usata quando serve. In questo caso, ecco, ci hanno fatto poi un 4 bis che dice quei reati che attengono alla categoria più generale di pericolosità sociale, e ne hanno messi tanti perché poi ogni tanto ne levano uno, ne mettono un altro, rientrano sotto l'ordinamento del 4 bis. Il 4 bis è un articolo che fa il divieto di concessione dei benefici penitenziari, come il 41 bis. Però mentre il 41 bis è proprio una forma di carcerazione diversa, no? Isolamento, sono carceri diversi come i carceri speciali, sono di una volta, sono speciali, quindi stanno lì, hanno solo un'ora d'aria al giorno, cioè, il 4 bis è un attributo che hanno dei detenuti che stanno anche insieme agli altri, però hanno l'impossibilità, il divieto di accedere alle, ai cosiddetti benefici penitenziari, che sono i permessi, il lavoro all'esterno e le misure alternative alla detenzione. Quindi devono stare in, fare in carcere fino all'ultimo giorno. Il Movimento 5 Stelle, poiché questa riforma tentava di togliere il 4 bis, questa pericolosità sociale, perlomeno attenuarla, più che attenuarla molto, il Movimento 5 Stelle, il deputato che sta nella Commissione Giustizia, si è arrabbiato, ha detto: così stiamo facendo, il governo attuale vuole fare un favore ai grandi criminali. Vabbè, non sono i grandi criminali quelli che hanno il 4 bis, perché per il pericolo sociale anche, anche il writer, quello che scrive sui muri, è un pericoloso socialmente, quindi vabbè, questo è per dire, no? Allora, la destra, il PD, la destra, cioè tutti i veri, come vedete, sono tutti forcaioli. Chi non lo era fino a ieri lo sta uscendo fuori più di una volta, per parlare di questi che sono gli ultimi arrivati. Dell'altri sapete vita, morte e miracoli, perché ne abbiamo parlato tante volte, ma penso ci avete anche riflettuto voi. Ma il Movimento 5 Stelle sono, diciamo, tra gli ultimi arrivati, quindi tutti da scoprire. E beh, più passa il tempo, più si avvicinano, loro pensano di avvicinarsi alla maggioranza e quindi al governo della Repubblica, diventano forcaioli anche loro. Queste cose non le avevano mai dette così, anzi diceva, facevano vedere che erano un po' libertari, cioè invece si stanno scatenando, come infatti c'è questa tendenza, intanto compare quella in qualche giornale, che fanno l'occhiolino alla Lega, perché come la Lega hanno delle tendenze così molto forcaiole e molto disciplinanti. Vabbè, insomma, questa roba qui c'è. Comunque non ci interessa adesso parlare dei gruppi, ma perché, come dire, completa l'arco parlamentare, questa presa di posizione, cioè come vedete tutto l'arco parlamentare è completamente contro il, diciamo, il miglioramento delle condizioni in carcere. Cosa dice questo, il nuovo ordinamento penitenziario che uscirebbe fuori da questi decreti? È quello, ve lo diciamo per l'ennesima volta. Dovrebbe aumentare le misure alternative, ossia l'affidamento in prova ai servizi sociali, che è la misura alternativa più importante, più grossa, che significa che per coloro che hanno una pena inferiore ai 4 anni oppure un residuo pena di 4 anni, dovrebbero andare all'affidamento in prova ai servizi sociali. Vuol dire che uno riconquista la libertà, perché non ha questo affidamento in prova ai servizi sociali, non ha grossi divieti, se non avere un rapporto con l'ufficio esecuzione penale esterne, che sono appunto servizi sociali, assistenti sociali che seguono il carcerato, la carcerata che sta rifacendo attività, quindi ci vuole il lavoro, la casa, il domicilio, cioè poi, no, intanto lo contattano o la contattano e cercano di capire che cosa sta facendo. Questo quindi sarebbe l'ampliamento di questo. Questa è una cosa, sistemare delle strutture pubbliche che permettano, strutture di accoglienza, quindi ogni comune dovrebbe realizzare delle strutture di accoglienza come dimore sociali per chi non ha abitazione, perché come ho detto da 15 anni a questa parte, diciamo tutti i giorni, che le misure alternative tanto sono premiali e quindi non ci piacciono molto, perché non sono automatici, sono premiali soltanto a chi è buono e bravo, eccetera, o buona e brava, eccetera. Vabbè, a parte questo, c'è anche un problema proprio di condizione sociale, cioè per avere la misura alternativa, qualunque essa sia, dall'affidamento in prova alla semilibertà, al lavoro all'esterno, eccetera, ci vuole un lavoro e un domicilio, cosa che per esempio molte situazioni di esseri umani che stanno su questa terra e in questo paese non hanno. Per esempio gli immigrati di recente immigrazione non hanno un domicilio, e quindi non possono trovare lavoro. Vabbè, è difficilissimo, però a quello si può anche trovare dicendo sono disposto a lavorare a metà paga, insomma, perché poi questo succede, però almeno quello si può trovare, il domicilio no. Allora, questa legge diceva che i comuni dovrebbero attrezzare degli edifici pubblici come dimore sociali per chi non ha non dispone di abitazione, in modo che anche queste persone possano avere le misure alternative. Poi ancora alla detenzione, prestazioni di attività a titolo gratuito per progetti di pubblica utilità che possono, sempre stabiliti dalle comuni o regioni, che possono essere utilizzati dai detenuti o dalle detenute per completare la condanna, quindi gli ultimi anni fatti anche in lavori di pubblica utilità a titolo gratuito. Beh, questa è la tendenza, si sta affermando in tutti gli interstizi, buttano là la scuola lavoro, la misura alternativa ai carcerati, tirano lì misure, diciamo, possibilità di lavoro gratuito, perché si vuol far passare, vabbè, che è chiaro che un carcerato che esce dal carcere per fare lavoratorio gli conviene, perché esce perlomeno da quell'inferno che è il carcere, però intanto in questo sistema cercano di affermare ciò che esiste anche il lavoro gratuito, che era una cosa che dal tempo delle rivoluzioni borghesi, quindi parliamo del fine 600 in Inghilterra, fine 700 in Francia e poi via via in tutta l'Europa, sono state vietate, perché si diceva il lavoro viene remunerato con un salario, cioè chi, il prestatore di lavoro, chi vende la forza lavoro a un imprenditore deve essere in omaggio al principio di scambio. Il principio di scambio è quello che regola tutte i rapporti sociali in questa epoca moderna, no? Ogni scambio, ad ogni prestazione deve essere corrisponde uno scambio. Uno scambio, quindi se io ti do la forza lavoro, tu mi dai un salario. Questo è il principio su cui nasce il capitalismo e si sviluppa, purtroppo, per noi. Comunque, questa cosa sta crollando, perché di lavoro gratuito, come vedete, se ne parla sempre più. Perché il lavoro gratuito significa riprodurre una situazione. Perché aveva detto quella cosa lì? Non solo per affermare le rivoluzioni borghesi, voglio fare la storia, un occhiello di pochi secondi. Non è che volevano stabilire un principio assoluto come fosse un dogma divino, semplicemente stavano distruggendo il sistema precedente, diciamo quello feudale, quello clientelare, no, dei sistemi monarchici, e quindi che erano basati molto sulla schiavitù, no? La servitù o la schiavitù, che sono due, servitù e schiavitù sono due lavori gratuiti, dopodiché il padrone ti dà da mangiare, da sopravvivere, ma non ti dà un salario che tu autonomamente poi spendi, poco o tanto che sia. Ti dici: io ti do un letto per dormire, ti do da mangiare e il tuo lavoro lo prendo gratuitamente. Per rompere questo meccanismo, per distruggere quindi la schiavitù che apparteneva al modo di produzione precedente, le rivoluzioni borghesi hanno affermato questo principio inderogabile: non è possibile fornire forza lavoro in cambio di niente. Quindi il lavoro gratuito era il più grande reato possibile, altrimenti la concorrenza, cioè qualche imprenditore usava lavoro, diciamo, gratuito, e quindi scavalcava gli altri, no? Ecco, adesso ricompare, quindi, come vedete, vabbè. Poi questo è il primo, quindi le misure alternative, lo sviluppo anche degli affidamenti per i condannati che poi hanno maturato o avevano prima e non si era poi scoperta l'infermità psichica, cioè malattia mentale, per questi è automatica l'affidamento esterno al carcere. La detenzione domiciliare, soprattutto per i genitori che hanno figli affetti da disabilità, favorire la detenzione domiciliare, così come per le donne che hanno i bambini condannati e che hanno bambini fino a 6 anni. Quindi a favorire la detenzione domiciliare, per togliere quella vergogna che sono i bambini e le bambine che stanno ancora nelle carceri italiane, il numero di quasi 50, che è una delle più grandi vergogne di questo paese, che carcera i nascituri, perché questo è inutile dire le parolacce che ci vengono spontaneamente, ma è questa roba qui, questo sistema in marcio dal tetto alle fondamenta. Poi la semilibertà allargata anche all'ergastolo anno viene portata, prima era dopo 26 anni di carcere effettivo interno al carcere, poteva avere la misura alternativa, adesso è portata a 20 anni da 26, quindi diminuita questa cosa qui. Non parla dell'ergastolo ostativo, queste riforme parlano dell'ergastolo, quello che poi cosiddetto condizionale, che poi finisce. L'evasione, quindi la condanna per evasione, non comporta automaticamente la revoca della misura alternativa, quindi perché questo faceva, perché bastava, che se, evasione significa che quando tu hai una misura alternativa, per esempio semi libertà o affidamento in prova ai servizi sociali, viene il controllo di polizia, può venire in qualunque momento e non ti trova per esempio al lavoro o non ti trova a casa nelle ore in cui dovevi stare lì, a quel punto la denuncia che scatta è quella di evasione, perché tu quando stai anche in controllo penale esterno, cioè quindi in queste misure alternative, devi stare dove dice il trattamento, in quell'ora, in quel posto, in quell'altra ora, in quell'altro posto. Se non ti trova lì, la polizia viene a fare intanto queste, è chiaro che quello che il reato che scatta è quello di evasione, e quello faceva rientrare molta gente in carcere, perché poteva succedere, no, uno che il traffico, cioè dovevi rientrare a casa per esempio alle 9, alle 10 di sera, facevi tardi per una serie di motivi, anche un guasto alla macchina, l'autobus che non passava, c'è sciopero dei mezzi, cioè, le cose sono tante, e quindi arrivavi 10 minuti dopo, un quarto d'ora dopo, veniva il controllo in quel momento, prima che tu rientrassi, e ti arriva la denuncia per evasione. E poi poi la liberazione condizionale, che si può concedere quando la persona condannata abbia almeno scontato 30 mesi di carcere oppure metà della pena inflitta. E insomma, questi sono i sistemi che abbiamo detto, però sono bloccati. E sono bloccati per motivi abbastanza, come si dice, di lana caprina, cioè non perché li debba approvare, deve semplicemente appunto farli uscire da queste commissioni giustizia della Camera e del Senato, soltanto verificare se all'interno di quella legge, della legge quadro, però ci stanno i problemi, come dire, ci stanno i problemi elettorali, e quindi stanno lì. Allora, 15:30, vediamo un po' ancora. Questo è un argomento, un tema di cui tutte noi, anche che non siamo in carcere, ne sentiamo parlare in questo periodo molto spesso, televisione, giornali, radio, tutto quanto. Qual è il tema? Sono le cosiddette baby gang. Ce li descrivono come dei mostri, dei ragazzi tremendamente feroci, mettendo in luce delle, diciamo, per come li descrive per esempio la televisione, dei fatti che sono veramente esecrabili, poco difendibili, che insomma, hanno aggredito un ragazzo, bande di 4-5 persone, ragazzi anche loro che aggrediscono un ragazzo e lo riducono a botte in fin di vita senza nessuna ragione. Allora tutti a dire fermiamoli, questa, cioè, sono veramente vengono descritte veramente come delle belve sanguinarie. Ora si descrivono solo quelle azioni lì delle baby gang, e quindi hanno così fissato nella percezione della cosiddetta opinione pubblica il demonio. Le baby gang sono il demonio e quindi come tale vanno represse e basta. E di fatti si sta muovendo tutto. Minniti ha fatto subito dei vertici partendo da Napoli, perché si pensa che siano maggiormente a Napoli. Ovviamente poi i dati dicono, nessuno dice i dati, poi li vedremo noi un attimino i dati. E allora, chi dice bisogna punirli, massacrarli, chi no, che addirittura si invoca l'abbassamento dell'età di punibilità, che in Italia è ancora discretamente alto, insomma al di sotto dei 12 anni non si può imputare penalmente nessuna persona. Vabbè, e questo è in realtà la realtà delle baby gang, che non sono così, questo termine anche, no, molto molto strano. Dunque, noi ne abbiamo parlato veramente da diversi anni, dall'inizio, perché è un dato che c'è da tempo in tutte le periferie disastrate delle metropoli, dove alligna la povertà assoluta, dove appunto il degrado assoluto, ma nel senso che mancano abitazioni, la disoccupazione fortissima. La disoccupazione, anche su questa danno sempre, come vedete, i giornali, radio e televisioni danno sempre i dati generali, no? Il 40% di disoccupazione giovanile è già un dato tremendo, è generale, però vale per tutta Italia e soprattutto per tutti gli strati sociali. Ci stanno alcune periferie molto popolari dove in quel gruppo, in quel territorio lì, la disoccupazione è l'80-90%, cioè non lavora nessuno. Ora, poiché, diciamo, l'essere umano deve campare, almeno questa, qualcuno si arrangia con l'assistenzialismo della Caritas, di quello che trova, altri devono recuperare quello che gli serve per... E quindi si sono formate da quando, soprattutto appunto da quando tutto questo nuovo millennio, che il peggioramento delle condizioni di vita delle periferie, delle classi basse, subalterne, molto basse, delle fasce di disoccupati che vivono nelle periferie degradate, ebbene si è intensificato molto. Si dice che la crisi è partita nel 2007, ma quella crisi, quella data, è legata a degli avvenimenti legati ai subprime, ricordate? Quindi diciamo, nel meccanismo finanziario la non riscossione di alcuni prestiti ha determinato questa crisi. Ma se per crisi intendiamo, come si dovrebbe intendere, l'impoverimento delle fasce più disastrate della popolazione, questa è cominciata molto prima. Diciamo, c'è sempre stato l'impoverimento, chiaramente, però è cominciato ad aumentare intorno alla fine del secolo scorso e l'inizio di questo. Quindi che queste periferie metropolitane sono impoverite fortissimamente è un dato di fatto. I dati anche qui però sono generali, non sono fatti zona per zona. Dicono che in Italia, in questo siamo nel 18, quindi comunque 17 anni compiuti del nuovo secolo, in questi 17 anni la differenza tra redditi bassi e redditi alti è aumentata di circa 5 volte, si è moltiplicata. In Europa è raddoppiata e anche triplicata, in Italia si è quintuplicata. Ora, queste fasce periferiche di popolazione periferica, urbane, portate alla miseria totale, che cosa devono fare? E quindi ormai da più di 10 anni si sta sviluppando in queste periferie, si sviluppano l'organizzazione di gruppi di giovanili, di ragazzi che prevalentemente, però al 99%, fanno reati contro il patrimonio, fanno piccoli furti. Per esempio, se è molto sviluppato il furto nei supermercati, non tanto dentro i supermercati quanto nei camion che portano viveri ai supermercati, che arrivano la mattina presto, oppure al contrario, quelli che quando chiude il supermercato, quindi la sera, portano via alcune cose, o addirittura proprio l'incasso. Ecco, queste piccole aggregate di giovani, di ragazzi, fanno questo tipo di attività. È prevalentemente rivolta per reati contro il patrimonio, se vogliamo usare il linguaggio giuridico, quindi per reperire roba da mangiare, reddito, qualche soldo. Che poi ogni tanto qualcuna di questa banda faccia queste cose che ci fanno vedere in televisione, ci sta pure, è così, ovviamente. Il problema è che questa è la realtà, è inutile chiudere gli occhi, che di oggi, che stante questo sistema sociale, stante queste politiche, si sta affermando. Cioè, se tu lasci, tu governo, tu Stato, tu politiche sociali, abbandoni queste fasce di popolazione, è chiaro che lì si sviluppa un certo livello di estralegalità, quello volto a recuperare il mal tolto, chiaramente, no? E quindi gruppi, e ovviamente lo fanno, sono diciamo gruppi giovanili, perché sono quelli che soffrono di più la mancanza di diciamo di cose per campare, e ovviamente i ragazzi sono più agili, più svegli, più, che cosa sta succedendo adesso? Appunto, le hanno demonizzate queste bande di ragazzi giovanili, sono piccole, non sono grandi bande, sono gruppi di ragazzi, cioè, da amici che fanno queste cose qua, gruppi di amici che si ritrovano, si riconoscono. Dunque, vediamo intanto qual è il dato generale, no? Allora, l'anno scorso i minori in carico, i dati così dei tredicenni non ci sono, nemmeno dei 14, ci stanno i minori oppure no, quindi vabbè, anche qui questo, il problema è questo, lo dico subito e poi torneremo, è che per intercettare questa realtà, perché questa è realtà, non è cose così, ecco, qualche cosa strana che viene fuori, la realtà del comportamento delle fasce giovanili diseredate, impoverite, eccetera, andrebbe rilevato non con la statistica ma con l'intervento politico nel territorio. Se le compagne e i compagni del movimento stessero radicati nel territorio, potrebbero incontrare queste persone, questi ragazzi e ragazze, e ragionare con loro, perché è sempre stato possibile, e quindi sarebbe possibile pure adesso trasformare questa ribellione così demotivata, completamente senza nessun obiettivo se non quello di rimediare qualcosa per mangiare la sera, in un'attività sovversiva, sì, ma per cambiare l'esistente. È possibile farlo, è possibilissimo, è stato fatto in Italia qualche decennio fa, non tanto, quindi è possibile farlo, però non c'è questa presenza nei territori, e quindi c'è poi tutta questa ideologia molto più forte di 40 anni fa in tutta la sinistra di giudizio. Siamo stati contagiati dal morbo del giudicare più che quello di ascoltare e comprendere e organizzare, casomai, questi sono i tre che ci interesserebbero: ascoltare, comprendere, organizzare, e invece usiamo quello del giudicare e condannare. Noi dobbiamo scegliere tra questi verbi, perché non possono stare insieme. Dunque, quindi sono all'inizio dello scorso anno, quindi esattamente un anno fa, a febbraio del 2017, i minori in carica ai servizi sociali erano 14.500 circa. Alla fine dell'anno erano cresciuti di 5.000, arrivati a 20.000. Quindi c'è stato già un aumento in quasi un anno di più di 5.000 unità in carico ai servizi sociali, che sono questi ragazzi individuati, che appunto sono i minori in carico ai servizi sociali, sono quei ragazzi che hanno un'età bassa per essere per avere la sanzione penale, quindi il carcere, quindi 12-13 anni hanno, non di più, e vengono tenuti in carico non tanto appunto dal carcere, dai secondini, ma dai servizi sociali, e quindi hanno il numero, che non vengono messi in nessun posto ma controllati sul territorio con incontri, con colloqui settimanali, mensili, giornalieri, secondo come stabilisce il giudice. E appunto, diciamo, a distanza di, alla fine della dicembre dell'anno scorso, quindi a dicembre, erano già 20.000, 6.000 in più. Allora, e ovviamente anche le attività, diciamo, contro il patrimonio fatti da questi minorenni sono saliti sempre nell'anno da 40.000 a 55.000, quindi anche perché appunto questo è in linea con l'impoverimento di queste zone e di queste fasce. Quindi questo va chiarito, però al di là di quello che dice la televisione, che la gente si mette, oddio, come sono cattivi, da dove questi sono ragazzi di situazioni disperate, in cui non si può vivere in quel modo, così come stabilisce la legalità e l'ordine di questa società, in quel modo lì e dove stanno loro non si riesce a vivere. Allora, poiché vivere è un obiettivo, è un bisogno principale di ciascun essere umano, in qualunque stato, in qualunque società si trova, è chiaro che devono andare a recuperare quello, il mal tolto, ciò che non riescono ad avere per via legale, e lo cercano per via extralegale. Questo è l'ABC del funzionamento di queste società. Ora, se da più parti si dice puniamoli, buttiamo in galera, quindi le botte, eccetera, no? Da qualcuno viene anche l'idea di abbassare la soglia della punibilità, portarla a 12 anni, sotto i 12 anni, perché questi cosiddetti baby gang, termine quanto mai deficiente, ma il giornalismo su questo è tremendo, guardate, non c'è sono peggio in questo senso, in questo ambito, quando si parla soprattutto delle fasce emarginate, povere, impoverite, così come dei rom, eccetera, il giornalismo è quasi peggio dei poliziotti, perché perlomeno il poliziotto ha una sua, sa che di cosa parla, poi può essere pure carogna, menare, cioè, però sa, il fenomeno lo conosce, ce l'ha sotto mano, l'ha vista queste persone, l'ha fermati, l'ha arrestati, gli ha menati, cioè, sa di che cosa parla. Il giornalista no, cerca di guarda in faccia il potere e dice: che devo dire, ti piace quello che sto dicendo? E quindi dice le castronerie, cioè una cosa oscena il giornalismo di oggi, una cosa proprio, certo ci sono eccezioni, ma non va oltre l'1%, quindi è un'eccezione molto esigua, però il giornalismo in generale fa abbastanza schifo, molto più di qualche decennio fa. Quindi si decide di poter abbassare, per fortuna. Quindi anche per esempio il signor Cantone, famoso, esaltato da tutti, dice no, bisogna combattere contro questa illegalità. Io pensavo che dicesse bisogna combattere col fatto che questi ragazzi e ragazze vengono lasciati in queste condizioni. No, bisogna combattere, loro devono rispettare la legalità, anche se la legalità non gli dà da mangiare né da dormire sotto un tetto. Vabbè, e quindi stanno facendo giri nelle scuole, Cantone e compagni, dicendo ai ragazzi: dovete rispettare assolutamente la legalità. Ovviamente i ragazzini se lo guardano e dicono: ma se la legalità non ci dà niente. Però comunque non, ovviamente non possono replicare comunque. E poi da qualche parte è venuto anche il fatto di abbassare oltre, al di sotto della soglia dei 12 anni. Per fortuna anche Minniti ha detto no, e Orlando ha detto no, e anche Minniti ha detto: ma non è il momento di fare questa cosa, bisogna invece fare fronte alla violenza dei minori, facendo sì che insomma, trovando sulle situazioni di miglioramento di quelle condizioni. Ha detto che abbassare l'età punibile non è la risposta giusta. Per l'altra falsità che si dice, che difatti sono andati sia Minniti che Orlando, vanno a Napoli a parlare col sindaco e col presidente della regione, perché c'è l'idea che la maggior parte vengono lì. Ovviamente non è vero nemmeno questa, perché è diffusa in tutto il paese, per esempio nella Lombardia è molto diffusa questo fenomeno cosiddetto dei baby gang. Chiaramente non sta nei paesetti dove appunto tutti, c'è quasi la piena occupazione, sta nella metropoli, nelle periferie di Milano, dove c'è una difficoltà enorme di cose. Quindi questo discorso va preso. Il problema, come dicevo, questa cosa, questo fatto è la realtà di oggi. È la realtà di oggi che si sta muovendo in questo modo. Non ci piace, ci fa schifo. Non è, ho detto, il problema, io non mi pongo il problema di giudicare, altrimenti facevo la carriera di una magistratura. Comunque quel verbo giudicare non attiene a una persona, secondo me, capace di capire che cosa succede, cercare, che l'obiettivo suo è cercare di capire che succede nella società in cui si vive. Il problema è capire, ascoltare e capire, e poi organizzare. Questo è l'obiettivo che deve fare. Se uno dice di essere compagno o compagna, non deve stare lì a giudicare il mondo, a dire quelli sono cattivi, quelli sono brutti, quelli sono stronzi, perché tu sei fuori linea, tu sei di qua, tu sei... No, deve semplicemente andare, come dicevano i vecchi che ci hanno insegnato a fare questa attività per trasformare la società, bisogna andare a scuola dalla realtà. Ora, se oggi la realtà presenta nei quartieri, quelli che una volta erano i quartieri proletari, anche dove c'erano lavoratori organizzati sindacalmente, che hanno messo in moto quel movimento operaio che ha trasformato le società, non come voleva, però comunque l'ha trasformata. Era un rapporto di forza a favore del cambiamento, sicuramente. Poi guidato male, cioè, però ecco, la realtà ci offre questo. Quindi il problema nostro è andare intanto nel territorio dove c'è questa realtà. Cercare di capire che tipo di realtà, conoscerla, capirla, ascoltarla e capirla, e poi organizzarla, perché non è che da giudicare o da punire, ma aiutare a organizzarsi, perché quella rabbia che si esprime oggi nelle rapine ai supermercati o nell'andare a recuperare il reddito in qualche altro modo, si possa utilizzare per cambiare l'ambiente in cui questi ragazzi sono vissuti, perché sicuramente non gli piace quell'ambiente e si può cambiare e lo vogliono cambiare. Ovviamente bisogna dargli una mano, può darsi pure che ci arrivino da soli, anzi sicuramente è probabile, però insomma è comunque il compito di chi si dice compagno o compagna è questo: non giudicare. Quello lo fanno i magistrati, i poliziotti, c'è tanta gente che giudica, non ne serve né uno né una di più. Allora, ancora su questo tema, vedete questa differenza che è enorme. Su questo molti forcaioli sono scatenati. Cinque sono, abbiamo detto, 20.000 a dicembre dello scorso anno, quindi due mesi fa, erano 20.000 ai servizi sociali di minori, aumentati già di 6.000. Negli istituti, che però quindi stanno liberi, fuori, negli istituti, in carcere, negli istituti penali per minorenni, IPM, ci sono soltanto 452 persone, ragazzi e ragazze, quindi quasi un decimo. E molti dicono: perché quei 20.000 non li mettiamo tutti in carcere, o comunque una buona parte? Ecco. Attenzione però. Dunque, di questi 452, ovviamente la gran parte sono stranieri. Perché? Perché il codice penale per minori in Italia, ancora prima che lo cambiano, hanno provato a fare un paio di cambiamenti, per fortuna non ci sono riusciti, di peggiorarlo in questo senso, perché è possibile, qualunque sia il reato che fa il minore, che il primo reato che fa non deve andare in carcere, dice ancora questo il penale minorile in Italia. Il primo reato che fa, anche se è molto grave, non deve andare in carcere, deve essere messo in prova. E poi si segue nella sua prova fino alle se nella prova, attraversa questa prova, che sono 3 o 5 anni secondo il reato, e non fa nessun altro reato, si estingue quel reato che ha fatto. Questa è la parte interessante del codice penale per minori. Questa cosa vorrebbero toglierla, perché in questo modo le carceri minorili si riempirebbero se levassero questa cosa qui. La gran parte perché sono stranieri? Perché non hanno la famiglia. Ovviamente non, se non va in carcere devi andare, o lo riprende la famiglia, se la famiglia dai servizi sociali è ritenuta valida a prenderlo. Ovviamente immaginate che probabilmente non lo è. Comunque ci stanno anche altre situazioni che non sono galere. Certo, a volte sono anche brutte. Comunque voglio dire che la maggioranza di questi 452 ragazzi e ragazze che stanno nelle carceri per minori, la gran parte sono stranieri, perché loro non hanno la famiglia, e poi ovviamente anche la difficoltà, diciamo, di essere seguiti fuori dal carcere è maggiore, anche per quel po' di razzismo che c'è, cioè, non è un problema, no? Ecco. Dunque, qui i dati, poi, ecco, al di là di quelle stupidaggini che dice la televisione e i giornali, i reati generalmente, quindi commessi dai minori nel corso di un anno, sono contro il patrimonio per il 60%, e quelli contro la persona sono soltanto il 17%. Quindi la differenza è questa, vedete? Ora, questo è un problema che ovviamente per ora il governo non è disponibile, questo governo qua, non sappiamo tra due mesi chi ci sarà, non è disponibile ad abbassare l'età della punibilità per minori, cioè di portarla a 12 anni e quindi più o meno di lasciare tutto così inalterato, fare interventi sociali e politici, economici, e poi non li farà, però comunque perlomeno non abbassa. Invece quello che sta prendendo piede, perché quello dell'abbassamento pare che non prenda piede per ora, è quello di mettere un codicillo in più, cioè l'aggravante del motivo futile, cosiddetto del predominio del branco. Questo codicillo starebbe a significare che, vabbè, se tu rubi, vabbè, si può stabilire, ma se tu, per esempio, cioè, sfasci un cassonetto, oppure, no, perché poi ecco, se viene individuato il motivo futile della tua attività e viene fatto in più di tre ragazzi questa attività, si vuol mettere, non c'è ancora, il predominanza del branco, che dà una maggior un aumento di condanna, un aggravamento, e in questo modo anche i minori potrebbero andare in carcere. Bisogna vedere se lo faranno, come lo faranno, e che questi sono i pericoli, quindi, che corre anche la cosiddetta giustizia minorile. Allora, siamo in chiusura, sono le 15:56, quindi manca poco. Ora, io ovviamente devo, mi rendo conto che non è facile seguire una trasmissione che è piena di dati, i numeri sentiti con le orecchie sfuggono. Però questi provvedimenti qui e queste tematiche qui viaggiano sui numeri, diciamo, i media falsificano anche i numeri, e quindi bisogna riportare il numero esatto per far ragionare intorno alla quantità di un fenomeno, riportare dei numeri. È chiaro che è poco comprensibile, però insomma cerchiamo poi di trarre anche dei ragionamenti, delle valutazioni sul carcere. Quelle che diamo noi sempre è questo, l'abbiamo detto tante volte. Il carcere ormai ha parecchie, come dire, ha parecchi secoli. Il carcere moderno è nato nel periodo mercantile, ha coinciso con la nascita delle grandi industrie, perché appunto doveva servire a imporre una disciplina necessaria al funzionamento, a che delle persone andassero a lavorare in quei luoghi chiamati fabbriche, eccetera, eccetera. Quel periodo lì, come ho detto prima, basato sullo scambio, il principio generale di quella rivoluzione industriale, rivoluzione borghese, chiamatela come volete, cioè quel periodo storico lì, che ormai sono 200-300 anni della modernità, no? La politica di scambio, cioè il principio dello scambio, è un principio fondamentale. A volte non ce ne accorgiamo, non stiamo attenti anche alla nostra vita. È un principio fondamentale che regola tutti i rapporti sociali in questa società. Quello del lavoro, ovviamente, è fondamentale, no? Il lavoro, sì, io lavoratore non ho nient'altro che non la mia forza lavoro, vado sul mercato a scambiare questa, un imprenditore prende la mia forza lavoro e mi dà in cambio un salario per campare, per tornare la mattina dopo a regalargli la forza lavoro. Ecco, e tutto funziona così. E allora fatevi questa domanda: ma il carcere, anche nel carcere, c'è o non c'è una politica di scambio? Ovviamente la risposta è sì, perché se voi vedete per esempio le cosiddette misure alternative, i cosiddetti premi, i benefici, i permessi, i premi, eccetera, stanno dentro uno scambio tra lo Stato e il detenuto. Lo Stato dice: tu detenuto hai violato la legge, eccetera, eccetera, quindi io ti metto dentro per il tempo più o meno corrispondente al danno che tu hai fatto col tuo reato. Tu mi devi dare in cambio, se vuoi uscire dal carcere, una buona condotta, cioè mi devi dire che ti sei disciplinato. A quel punto io ti faccio uscire anche prima, con i permessi, con i benefici, eccetera, eccetera. Quindi vedete, anche lì dentro c'è uno scambio. Però questo la politica di scambio interna al carcere, che sta nelle leggi, sta anche nel comportamento quotidiano della relazione tra carcerato e carceriere. E su questo la prossima volta andremo ad affrontare come il carcere è un luogo di contrattazione permanente, anche al di fuori delle leggi, che, come dice un detto interno alle galere, molto vecchio e molto raccontato in